piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Io mi sono tanto emozionata quando mi è arrivata. Mi è arrivato un venerdì sera dopo una giornata di lavoro e onestamente non ero preparata. Guardate, sono rimasta colpita dal profumo, perché la fatta profumata di borotalco è meravigliosa. Le manine che si così sono morbide, io pensavo fosse tutto in plastica rigida. Anche i piedini sono morbidi allo stesso modo. E poi il peso ti si accascia addosso quando la prendi in braccio. Guardate com'è bella. Sono anche emozionata. Ho deciso di acquistare questa bambola Reborn in quanto sono bambole fatte a pezzi unici, anche se nascono da un kit di partenza che questo può è l'entusiasmo prodotto. L'entusiasmo di una ragazza che ha appena ricevuto il pacchetto con la sua bambola Reborn. Devo fare una premessa: ho detto tutti conosciate il fenomeno, un fenomeno che nasce da qualche decennio, all'inizio un fenomeno per soli collezionisti, poi è venuto l'uso di usare come passatempo, tecnica di bricolage, la costruzione di bambole iperrealistiche che rappresentano neonati. Ma se dico iperrealistiche, dico veramente iperrealistiche. Il kit che arriva a casa è un kit disassemblato, gambine, braccine, testina, di plastica, penso, di gomma morbida, un materiale che imita la pelle. Poi la bravura della signora che si è comprata la Reborn è di colorarla, pitturarla con sistemi a volte anche artigianali, segreti, di modo che sembri esattamente un poppante. Proprio appena uscito dalla clinica, appena nato, gli mettono la cuffietta, gli mettono le scarpette, gli mettono il vestitino, gli mettono il ciucciotto, e qualcuno gli fa fare anche la cacchina e gli cambia il pannolino, anche quella è finta attualmente, useranno Nutella, roba del genere, ma lo fanno. Insomma, permette di rivivere appieno l'esperienza della gestione di un neonato. Guardate, sono talmente realistiche che sembrano bambini, perché poi se uno le porta a spasso, le porta in giro, e qualcuna di queste signore lo fa per dimostrare quanto è stata brava, è assolutamente inconfondibile, si vede sicuramente come un bambino. Beh, mi piace questa mattina riflettere su questo tema. Donne che giocano con le bambole. Noi maschi abbiamo dato per scontato che possiamo giocare con le bambole. Il nostro sistema di sostituzione con succedani, cioè con elementi artificiali, di quelli che sono gli oggetti tipici della relazione intensa, amorosa, hanno partorito la real doll, delle bambole che impersonificano una compagna di avventure sessuali estreme, esattamente come la vorremmo noi, docile, remissiva, che non dice mai di no, la vestono, la conciano, pesa anche quanto una donna vera, quindi può pesare anche 60 kg in su, e se la mettono a letto, se la spupazzano come se fosse una donna vera. Lo stessa intensità affettiva nelle donne rispetto alla possibilità di avere un succedaneo, quindi un sostituto sintetico, ha partorito la Reborn. Ha partorito esattamente quello che è il frutto più sublime dell'amore femminile, un pupattolo, un bambino, esattamente come se fosse vero. 800240024. Se siete tra le donne che giocano le bambole, chiamateci, uscite da questa sorta di circolo di sospetto, non pensiate che vi giudichiamo, anzi è molto interessante capire come lo fate, perché lo fate e che soddisfazione voi ne possiate trarre. Ciao a tutti follettini e follettine, benvenuti in questo nuovo, diciamo, mini vlog dove vi farò la morning routine della mia bambola Reborn. Questo è l'armadio dove tengo le cosine della mia piccolina. Ah, guardate, questa qui è la maschera che ho fatto io di carnevale l'anno scorso col cartoncino. Qui dentro ci tengo il suo biberon, lo spazzolino che vi dissi che uso come spazzola per capelli, e i ciucci, questo qui. Allora, da metterle prendiamo questo ciuccio qui oggi per cambiarla, quindi prepariamo il ciuccio, ecco qui. Questa qui è la scatola dove tengo tutto. È interessante, e poi mi supporterete con il vostro giudizio, capire anche la mutazione antropologica. Le bambole nascevano per addestrare le bambine comunque ad essere mamme. Le bambole della mia generazione erano tutti pupattoloni, pupattoline, con il ciuccio si cambiava, si giocava, vedevi le bambine che giocavano con le bambole. Noi maschi le prendevamo, le sbattevamo per terra, gli staccavamo le gambe, facciamo quello che fanno poi i maschi da grandi con le donne vere. Ma poi c'è stato il passaggio intermedio. Sono nate le bambole zoccole, che, quindi le bambine con la bambolina imparavano a fare tutt'altro, a fare i bambini. Si sono tutti stracciati le vesti, hanno detto sono cambiati i tempi, Dio mio che bambole mettete in mano alle nostre bambine, bambole dalle misure incredibili, Barbie non sta nemmeno in piedi, se fosse in carne ed ossa cadrebbe subito, ma peggio ancora le brazze, che poi veramente sono chiaramente bambole zoccole, che servono appunto per addestrare sin da piccole alla seduzione, su tutto è stato detto su questo. E però scopriamo che una generazione donne recupera in maniera iperrealistica, con tutte le possibilità che dà la tecnologia, che dà la costruzione del simulacro sintetico, quella che era la vocazione primaria della bambola, ovvero una bambola che sia un bambino, e quindi da grandi recuperano quello che non hanno avuto da bambini, perché gli erano state messe in mano delle Barbie. Che ci fai con le Barbie? Mica gli puoi mettere il ciuccio, e Ken non è adatto per essere un sostituto di questo, quindi torna alla Reborn. Barbara Guidetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Barbara Guidetti è una collezionista di bambole Reborn, ha fondato un gruppo Facebook e il blog Mamma di Bambole, da cui è stato tratto anche un libro. Sei d'accordo? Una lettura estemporanea, che oggi le donne che hanno la Reborn sono quelle che non si sono accontentate di avere Barbie, perché in realtà non era una bambola a tutti gli effetti, era una sorta di modello di quello che loro avrebbero dovuto essere, magari non gli andava proprio di esserlo. Guardi, io mi dissocio un pochettino da quello che ha detto, nel senso che, io sono una collezionista di bambole da quando sono piccola, ho vissuto 2 anni e mezzo negli Stati Uniti e là ho collezionato Barbie a go-go, per cui, e qualsiasi tipo di bambola, non so se è presente le Cabbage Patch, che sono le prime forse che sono state fatte numerate, su misura come volevi, però erano in pezza, anche quelle comprese. Da collezionista, sempre oggetti da collezionista. Sì, da sempre, orsetti di vario genere, quindi comunque mi piace collezionare in genere. Però sulle Reborn c'è veramente uno spaccato, una divisione tra due mondi. Chi le colleziona, tipo me e moltissime mie amiche, e chi le vive, che però è ancora una minoranza, anche se grazie a loro avete parlato delle Reborn, perché secondo me come collezionismo puro pochi sarebbero interessati a quello che stiamo facendo. Invece quella scusa che sono apparsi su YouTube, video di mamme che cambiano i pannolini 100 volte al giorno, che si inventano la Nutella, che le portano in giro come se fossero bambini veri, soprattutto sono iniziati dagli Stati Uniti con YouTube, poi adesso so che ce ne sono anche in Italia. Sì, però è una realtà, onestamente. È una realtà sicuramente, però è nulla da togliere, perché secondo me il ruolo di questo tipo di bambole che sono Reborn, appunto rinate, ha molteplici sfaccettature, vengono usate per bambini autistici, vengono usate per l'Alzheimer. E cosa ci fanno i bambini autistici con la bambola? I bambini autistici, io ho persone che l'hanno presa, dicono che è molto più facile l'interazione con questa bambola. Io non sono esperta di autismo. Io sì, ho un figlio autistico. Esatto, e poi ad esempio per l'Alzheimer, perché le bambole Reborn vengono divise in 2 categorie, le dormienti e quelle sveglie. Quelle ad occhi aperti non sono adatte all'Alzheimer, invece con gli occhi chiusi no. Probabilmente perché lo reputano un bimbo morto, però comunque dare un cadaverino ad un bambino a una signora con l'Alzheimer può avere dei vantaggi. Esatto, è meglio darlo con gli occhi aperti, invece dicono che c'è un grosso attaccamento, ovviamente non ci sono. Adesso onestamente a vederle, adesso non voglio sembrare che quelle con gli occhi chiusi sembrano proprio dei bambini morti, c'è molto sì, di macabro. C'è da dire che quelle con gli occhi chiusi per le collezioniste spesso sono più belle, perché è vero che possono fare questa impressione, però sono realmente iperrealistiche, perché quando uno guarda una Reborn con gli occhi aperti, ovviamente l'occhio è fisso, cioè nel senso, è fisso. Quello che dorme sembra vero. Quello che sembra, sembra più vero. Poi anche lì poi ci sono sempre chi ama solo i dormienti, chi ama quelle sveglie, eccetera, eccetera. Comunque vede però che dietro c'è una filosofia, non è un semplice oggetto, o perlomeno l'oggetto, la collezione perde la sua destinazione d'uso primaria quando entra nelle mani delle persone che ne vogliono fare qualcosa con cui si stabilisce un legame affettivo comunque a tutti gli effetti. Sì, ad esempio io ne ho 18 di Reborn, ma non sono solo, cioè nel senso. Ma lei le ha costruite proprio o le compra già fatte? No, io le colleziono, nel senso scelgo l'artista che mi piace, ho più bambole magari di quell'artista, di altri artisti, ne ho degli Stati Uniti, Spagna, Olanda, cioè Polonia, cioè poi magari di una stessa bambola ho scelto due artiste differenti per vedere un'interpretazione diversa. Però è un altro, diciamo, un altro settore, lei la vede da un punto di vista della collezionista. Ma siamo tante così, è quello che voglio precisare, mi spiace proprio. Voi volete, diciamo, rivendicare un pochino la purezza, sì, della vostra passione? No, perché sono come opere d'arte, perché uno colleziona quadri, uno colleziona bambole. Quello che secondo me affascina di queste bambole è che c'è una grossa cura del dettaglio, una ricerca della perfezione. E la cosa, secondo me, forse più carina è che sono assolutamente non necessarie, sono futili, ma diventano indispensabili come qualsiasi collezione. Alla fine hanno un prezzo anche elevato, mi sembra. Sì, sono molto elevate. Quanto può costare al massimo? Allora, una bambola Reborn, che sono quelle classiche che si vedono in vinile, parte una buona, parte dai 400, arriva agli 800 circa. Anche se qua il discorso è grosso, perché ci sono i prematuri, i neonati e le toddler. Le toddler sono tipo bambini di 1, 2, 3 anni, e quindi il prezzo sale perché ovviamente la colorazione poi stanno in piedi, non sta in piedi? No, sì, ci sono delle armature da mettere all'interno, cioè la maggior parte sono fatte con gambe piegate, però ci sono anche quelle con gambe dritte che hanno un'armatura interna e ti consentono di tenerla in piedi. Comunque sia, sono giocattoli per adulti, cioè non possono essere chiamati giocattoli, sono... No, perché sono tra l'altro anche per legge, credo, vietate ai bambini sotto i 14 anni, perché è delicate, fatte con materiali... Poi i colori non saranno quelli atostici, saranno... Esatto, sì, poi anche lì il prezzo viene fatto perché ci sono colori Genesis che sono molto più cari e colori invece acrilici che ovviamente costano meno, gli effetti sono differenti e il prezzo di una Reborn viene proprio fatto da che tipo di occhi metto in vetro più simili a quelli dell'essere umano, i capelli, se sono capelli umani o se sono mohair, i colori che uso, e quindi lì si quindi fa il top è farla con capelli umani, sì, esatto, capelli umani che sembri più vera, poi ovviamente scusi il tema, ma la popò con che si fa? Non lo so, quella io non l'ho mai fatta. No, io l'ho vista, però l'ho vista, c'è il pannolino dentro, c'è questa robettina marrone. Lo so, e tra l'altro c'è anche una bambola in Spagna che hanno creato che fa la popò. Cioè nel senso probabilmente... Sì, proprio per i bambini quella. Non no, per... no, la bambola, questo tipo di bambola costa più di 3.000 euro, quindi... Costa caro. Esatto, no? Però è giusto che lei abbia segnato questo spartiacque. Le bambole Reborn, sì, perché... sono oggetto di collezione. Se poi delle donne la usano come un surrogato di maternità o poi di tenerezza... Poi non so se è un surrogato, sicuramente, ad esempio, anche io nel mio gruppo un signore... che senza fare nomi né niente, che ovviamente è singolo, non ha potuto adottare bambini, voleva bambini a tutti i costi, ha deciso di adottare queste, e quindi anche, cioè non è... Cioè io non voglio, non voglio sembrare con dei pregiudizi, un pochino mi fa pensare il signore si compra il bambolotto iperrealistico, e sono talmente iperrealistici oggi che ci sono tecniche di presa... Non sono solo donne che li hanno, eh. Sì, anche uomini, esatto, quello mi inquieta un pochino di più onestamente. Però... Cioè nel senso, c'è anche quel filone lì, io... un po' di uomini anche nel mio gruppo, quindi non... C'è l'uomo che veste il bambolottino, gli mette la cuffietta, le babbuccine... Adesso c'è questa immagine di uno che ci gioca tutto il giorno. Io vorrei far capire che certo che c'è chi sì, lo ma fa io sicuramente. Se non sono aperto a questa cosa, non ci vedo nulla di strano, vogliamo... No, mica gli uomini devono giocare solo con i trenini o con la Jaguar Matic. D'accordissimo con lei, sì. Però non è che uno che ha una collezione di francobolli o che ha una collezione di quadri, non è che ci gioca tutto il giorno, se la ammira è contento. Certo, se vedessi il signore in giro con un neonato in braccio e poi capisco che è di gomma, dico vabbè, ognuno ha le sue passioni. Ferma un attimo, Elga Marzala, buongiorno. Buongiorno. L'avevo sentita qualche giorno fa, la nostra collega che si occupa di critica d'arte, ma in realtà questi oggetti possono essere chiamati oggetti d'arte dal tuo punto di vista. Sì, ma infatti una cosa subito interessante, che a me non mi interessa chiaramente per il mio lavoro, è la dimensione estetica di questi oggetti che sono dei feticci. C'è una dimensione che rimanda immediatamente al perturbante, no? Questa inquietudine, sono degli oggetti che stanno esattamente sospesi tra la vita e la morte, lo accennavate voi, sembrano un po' dei piccoli cadaveri. Allora, se dobbiamo dirlo veramente, dalle foto, sembrano tutti dei piccoli bambini morti. Sembrano dei piccoli perché cadaveri. Sono tutti rugosi, fermi, immobilizzati, con gli occhini chiusi, sì. Acconciati. C'è un racconto di Curzio Malaparte, si chiama Elangelito, parla di un rituale che lui ha visto in Messico, un bambino morto che viene acconciato, coperto di fiori, vengono tutti, e dopo un po' sente l'odore di cadavere del bambino che si mischia con tutti i cibi che offrono la famiglia. C'è qualcosa veramente di mortifero, però è ma così. La sensazione, il sentimento che muovono queste bambole poi in chi le tocca, le guarda, è ambiguo, perché da un lato ci fanno di tenerezza, di dolcezza, ma da un altro lato ci fanno paura, cioè ho letto molte testimonianze di persone che dicono proprio di provare repulsione, disgusto. Ma ovviamente c'è chi la bambola assassina, a me sinceramente non so se è presente. Il motivo è che è appunto un doppio del reale, ma che rimanda alla categoria della dimensione della morte. E ti dico anche che questa cosa non è casuale, perché dal piano estetico passiamo a quello della realtà della vita vera. C'è un servizio che viene offerto, questa è una cosa macabra, ma esiste, si chiama Reborn Memorials, che sono delle bambole fatte su misura per genitori che hanno perso i loro bambini e quindi forniscono un simulacro del bambino morto al produttore, sì, le indicazioni su com'era il loro bambino, quindi capelli, gli occhi, glielo rifanno iperrealistico, vengono rifatti e vengono dati poi a questi genitori. Per alcuni può essere un modo per elaborare il lutto, ma è chiaro che lo continuano a vestire, a cambiare, sì, a il rischio è che si entri in una sorta di loop e questo feticcio poi realmente sostituisce. Però scusami Elga, si chiamano reborn, qua poi sono resuscitate. Resuscitate. Sono bambine resuscitati, sono questo è il senso. Dei siti con tutte queste foto mortuarie proprio di bambole uguali a con le mamme che le pullano e sono bambini morti. C'è stata anche una donna americana che ha avuto dei problemi, ha dovuto chiudere poi l'account Facebook perché lei collezionava bambole. Tra le tante ce n'era una che era appunto il doppio, il feticcio di suo figlio che era morto. Allora, fermiamoci solo un istante, io credo dare la linea. Allora, riassumiamo. Abbiamo spiegato il fenomeno, abbiamo fatto capire di cosa si tratta, la duplice valenza di questo oggetto. Adesso mi piacerebbe che chiamando all'800240024 anche le persone che in Italia fanno questa collezione, hanno questo hobby o hanno questo senso di affettività per la bambola, a me non scandalizza. Ci stiamo andando verso una sorta di lussura per l'inorganico, di fascinazione per l'inorganico. Ditelo francamente, come l'hanno detto le signore che abbiamo registrato da YouTube, che sentono quasi una sorta di ammaliamento, di tenerezza per la bambola di gomma che stanno costruendo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Oggi sono qui con il piccolo Kurt per filmare un videocambio un po' diverso dal solito. Gli ho appena dato la pappa e adesso gli cambierò il pannolino e poi completerò il suo outfit insieme a voi. Indossa questo body bellissimo azzurro. Per prima cosa cambiamo il pannolino. Allora, mi piace davvero tantissimo questo body. E poi, allora, bene, dove sono le salviettine? Vediamo una salviettina. Vabbè, ve la faccio breve. Sta pulendo con le salviettine umidificate il sederino della sua Reborn, che ha appena fatto quella grossa, e gli cambia giustamente il pannolino. Voi direte follia? No, perché è lì, gente gioca con i trenini elettrici, gioca con costruire i modelli delle navi dentro le bottiglie, e una signora non può giocare con la bambola. Vincenzo Maisto, buongiorno. Allora, Vincenzo Maisto è autore di un blog, Il Signore di Distruggere, un blog molto noto, è stato premiato anche ai Macchia Nera Internet Awards, sta seguendo vari fenomeni della rete, aveva seguito anche intensamente il fenomeno delle mamme pancine e naturalmente non gli è sfuggito il fenomeno delle bambole reborn. Tu che idea ti sei fatto? Da quello che leggi nei social, dalle persone che non telefonano questa mattina, evidentemente hanno del ritegno a raccontare questa storia, come si esprimono nei social le mammine delle reborn? Allora, io concordo in parte con quanto detto dalla signora intervistata in precedenza sul fatto che bisogna comunque fare una distinzione tra chi acquista queste bambole per mero collezionismo e chi invece per farne un gioco di ruolo, anche se sì, anche una mannaia io la compro per fare le bistecche o per tagliare a pezzi la moglie, quello è chiaro, ovviamente ormai. Dipende sempre dall'uso finale. Parliamo dell'uso però promiscuo delle bambole, che l'altro abbiamo definito, sono sì, bravi sì, tutti. Sì, sì. Che fanno? Allora, il gruppo che ho tra virgolette scoperto, che mi è stato segnalato, che si chiamava Il Mio Bimbo Speciale e che quindi sulla falsa riga poteva sembrare riferirsi a bambini con delle difficoltà o comunque certo, con bambini disabili si dicono molte volte, bambini esatto, autistici, bambini speciali. In realtà si riferiva a delle signore collezioniste che però queste bambole le impiegavano per manipolare le persone che le circondano, quindi le portavano nella sala d'attesa di un medico di base per sentirsi dire che il bambino dormiva molto tranquillo, che era molto buono. Cioè un gioco sociale praticamente, portarle in giro e vedere quanto funzionava. All'interno del gruppo si scambiavano queste esperienze, ovviamente le persone intorno a loro, nella loro sfera sociale, ignorano che si tratti di una bambola, pensano che è un bambino che dorme in una culla, in un carrozzino, quindi tutte queste esperienze surreali, Dimostrava anche che erano state molto brave a dipingerle, a costruirle, a farle, era soddisfacente. No, però non tutte le collezioniste sono anche delle costruttrici, cioè alla fine... Sì, perché è difficile, penso, per farli, addirittura se filmati in 4K, che oggi è il massimo livello di definizione possibile, non si vede la differenza, pensate quanto possono essere accurate. Quindi il gioco era comprarsi o avere una Reborn e andare in giro e far finta che sia un bambino vero, ai giardinetti. Coinvolgendo altre persone. Guarda quanto è carino, gli dà le carezzine, quanto è bellissimo, che manine dolci, sta dormendo, non lo svegli. Cos'è caso... questo Dorino? Ha fatto quella grossa, adesso lo cambiamo. Ma come fanno in quel caso? Scusa. No, però sono abbastanza brave da non superare mai un limite. Nel senso... per non essere scoperte. No, chiama l'ambulanza, è chiaro. Certo. Un caso eclatante è stato quello della signora che cercava una babysitter per la sua bambola reborn, però in realtà non cercava la babysitter, lei cercava un dialogo con una persona che è andata a casa sua e che io poi ho intervistato in una telefonata videoregistrata. Sì. Cercava un dialogo con questa persona per poi non richiamarla mai più. Tu hai parlato con un aspirante babysitter che aveva fatto il colloquio di lavoro. Sì, sì, sì, ho fatto. E cosa aveva detto? Questo è molto interessante. Cosa aveva detto questa ragazza? Praticamente nello screen che a me è arrivato di questa signora che ha raccontato la sua esperienza al gruppo, lei racconta, dice la mia bimba speciale si chiama Marie, ha 18 mesi, poi scelgono tutti nomi molto esotici, nomi stranieri per le bambole. Dice Maria ha bisogno di compagnia, i peluche non la aiutano, quindi avevo pensato di darle una tata. Ha lasciato il suo recapito telefonico e gli orari in cui poteva essere contattata all'esterno di un nido reale nella sua città, e scrive: mi hanno chiamata due ragazze, sono venute a casa e ho detto loro che la bimba dormiva, così da non poter Se la fa intravedere senza fargliela prendere in braccio. La fa intravedere dalla stanza, perché ovviamente la bambola ha anche la sua nursery, quindi non è che... Certo, scusa, ma sta gente non c'ha veramente una mazza da fare dalla mattina alla sera. Comunque, ma per questo... Beate loro. E poi successivamente è stato fatto il colloquio alla tata, è stata congedata e... non è stata ovviamente mai più richiamata, tant'è che la ragazza che poi mi ha contattato, perché si è riconosciuta all'interno di questa storia, perché la signora comunque fa dei riferimenti anche abbastanza specifici, dice nome, dice una serie di situazioni che sono avvenute durante il colloquio, la ragazza chiamandomi, e la telefonata è registrata, se a qualcuno interessa la può trovare in pagina, dice praticamente conferma la versione di questa mamma speciale, cioè che ha visto da lontano solo la culla, che le è stato offerto un caffè, che le sono state fatte delle domande di rito quando si cerca una babysitter e poi è stata congedata. Ecco, tu che impressione hai avuto però, Vincenzo? Che esiste una sorta di quasi società segreta di signori che si scambia questa passione, che alla fine poi non fa male a nessuno. Io capirei quello che farei io, ma io sono veramente oltre i limiti. Io ci andrei in giro, insomma, alla stazione, farei finta che mi cade sui binari del treno, del che dice la gente, almeno fai casino. Così... Io so che qualcuno l'ha utilizzata all'Expo per saltare le file. Se proprio devo essere l'Expo, ecco, ha un senso, ma se proprio vuoi scandalizzare, certo, mi fa sedere, io me la porterei sempre dietro. Mi scusi, sono un povero ragazzo padre, mi faccia sedere. Ma infatti, fino a che si tratta di un gioco che crea anche. Ma qua non mi sembra un gioco, mi sembra quasi un setting abbastanza. Una roba da psycho, capito? Elga Marsala, che ne pensi te di quest'ultimo particolare? Ci ha detto a proposito di psycho, visto che c'è Vincenzo al telefono, pensavo proprio a uno dei casi che lui ha raccontato, cioè ha riportato la testimonianza di una ragazza che raccontava appunto di questa coinquilina che era arrivata con una bambina e lasciava la bambina alla madre. Silenziosissima questa bambina. la madre non si vedeva mai, però ogni tanto sentivano litigare figlia e mamma la sera, le due voci. Che... Poi un giorno questa ragazza è uscita e dice: lascio la bambina a mia madre. C'è una fuga di gas, almeno mi sembra di ricordare che la storia fosse così, c'è una fuga di gas per cui arrivano i carabinieri e cercano un'anziana signora con una bambina per salvarle, non so, entrano, sfondano la porta e trovano la neonata, che era una bambola, e la signora non c'era, perché la signora non era mai esistita. Ah, faceva due voci la bambola. Era lei che faceva due voci. Esattamente come norma. Psycho. Psycho, preciso. Quindi lei faceva due voci, per sempre un gioco di ruolo che però sconfina, insomma, in questi casi nella patologia. Diciamo. Queste cose avvengono in Italia comunque, non pensiamo avvengono in paesi esotici. Sì, sì. Vabbè, sappiamo quindi... che comunque esiste anche questa realtà. Non è che ci strappiamo le vesti dove siamo finiti, però è giusto capire che attraverso gli indicatori, come possono essere dei semplici forum su Facebook, si capiscono alcuni elementi di connessione rispetto alle tante paranoie della contemporaneità. Ci fermiamo un secondo, poi andiamo avanti. Melog. Vendo Reborn Toddler di nome Rossella, col suo certificato di nascita firmato dalla Rebornista. Misura 73 cm di altezza, pesa 4,10 kg. Ha routing di capelli morbidi umani. Viene venduta con due vestitini, mentre l'orso e il piccolo bambolotto non sono in vendita. Per tutte le altre informazioni e per il prezzo, messaggio solo in privato. Grazie. Accetto anche pagamento a rate con un acconto per fermarla. 800240024, so che in ascolto ci sono donne che hanno la Reborn a casa, però non telefonano, ma non vi vergognate, non ci trovo nulla di strano, potrei confessarvi anch'io che costruisco dei bambolotti zombie a casa, mi piace, mi diverte, ho un ognomo sempre sulla mia scrivania, ogni tanto lo posto su Instagram assieme ad altri pupazzi, è divertente giocare con i pupazzi, però sto guardando adesso il campionario degli accessori per chi vuole essere un perfetto collezionista di Reborn, c'è di tutto, ci sono i solventi, ci sono i colori, ci sono gli occhi, la colla, i pancini, le braccine, gli occhietti, insomma c'è un grande campionario. Barbara Bellinzona, buongiorno. Buongiorno. Allora, rappresenta l'azienda B-Baby, che ha un sito bbaby.it, che commercializza in Italia e in Europa i kit e gli accessori per realizzare queste bambole. È un buon business? Esatto. C'è un bel pubblico che usa e compra questi accessori? Sì, ce n'è moltissimo, più di quello che uno potrebbe pensare. E devo dire che nella mia esperienza io devo dissentire alquanto di tutto quello che è stato detto, se così si può dire. Dica e dei punti. Rimango un pochino sconcertata del fatto che sono intervenute persone anche esperte di blog, di estetica, eccetera, e nessuno ha accennato al fatto che il web, pur essendo una grande opportunità del secolo, può essere anche luogo, diciamo, di brutte cose. Sì, sì. Ed essenzialmente tutte le persone che postano sono video, diciamo, del genere di cui abbiamo parlato, sono essenzialmente persone che cercano di visibilità a qualsiasi costo e con qualsiasi cosa. Signor Bellinzona, solo una piccola percezione, parla quanto vuole. È chiaro che lei, logicamente, è più propensa a pensare che è la prima parte di quelli che le collezionano, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, aperto dicendo così, che fa uso di questi accessori, ma che sia una realtà, l'uso promiscuo e quasi patologico queste bambole è una realtà inoppugnabile. Guardi, io le posso, non voglio essere presuntuosa, però vorrei portare la mia esperienza di 10 anni in questo campo. Penso di conoscere veramente migliaia di persone, sia artiste che le realizzano, che sono le mie clienti, quindi sono da hobbyiste a persone molto ma brave, sono quelle che le usano, non tanto quelle che le fanno. Sia collezioniste. E va bene, queste esistono, ma abbiamo detto, abbiamo fatto una distinzione a priori, abbiamo detto. Sì, però guardi, le posso garantire che io in 10 anni non ho mai conosciuto una persona che realmente si approccia in questa maniera alle bambole, cioè se ci sono persone burlone a cui a quale piace ma quindi tu pensa che sia può essere se ha degli scherzi farsi pubblicità o piace, diciamo, farsi notare in qualsiasi maniera, ma lo sappiamo che nel web c'è un sacco di persone che postano video su YouTube di qualsiasi genere tipo, non solo che quindi secondo lei è una piccola minoranza che si burla con di queste cose qua, diciamo, non... ma certo, però certo, oddio, guardi, Ferma un attimo, Vincenzo Maestro, scusa, perché dobbiamo capire, e non voglio far la parte di quello per forza trovare l'aspetto scandaloso, ma sei convinto che sia soltanto delle burlone che scherzano le cose che stai seguendo? Questo è una persona che ci sta tutto il giorno a guardare queste cose, non è che lo fa in maniera hobbistica, seriamente classifica e osserva. Ma cioè che si possa essere un gioco, questo credo sia in un certo senso anche scontato. Ovviamente quando il gioco va oltre e coinvolge persone ignare che si tratti di un gioco, non è più un gioco. Cioè alla ragazza, ci ho parlato io al telefono con la ragazza che è andata a fare il colloquio per fare la babysitter di una bambola, quindi è rimasta traumatizzata quando ha saputo che in realtà non c'era nessuno bambino. Diciamo che possono essere dei casi isolati, ma indubbiamente c'è un uso molto spinto del proprio tempo. Certo, è chiaro. Ha ragione che la maggior parte sono persone normali che collezionano bambole invece di collezionare francobolli, ma su questo ovviamente siamo tutti d'accordo. Cioè, sono anche dei veri artisti, perché sono bambole che hanno comunque sia nel risultato finale una forte valenza originale, sono fatte bene. Vedo che... Io ho visto anche su YouTube video di chi le porta al supermercato, di chi le porta al parco, in piscina, cioè, voglio dire, sarà anche un gioco, però chi non è consapevole del gioco non si diverte. Ecco, cioè, quindi... Barbara Bellinzona, vediamo di capire, in realtà la costruzione della bambola, l'acquisto, la personalizzazione è un'operazione complessa, non è che la possono fare tutti. Ma guardi, la vera novità della bambola Reborn non è tanto il realismo, perché comunque forse non si è messo l'accento sul fatto che la bambola è il giocattolo più antico conosciuto nella storia dell'umanità. Esatto. E le fattezze di un bebè vero, cioè esistono comunque bambole, una produzione artistica famosissima che inizia comunque nella seconda parte dell'Ottocento, quindi non c'è nulla di nuovo nelle Reborn, se non il Treperei l'hanno trovata scavando a Roma, è una bambolina di legno, ci giocavano i figli degli antichi romani, hanno sempre avuto le bambole. Esatto, però già alla fine dell'Ottocento la bambola ha assunto le fattezze di un bebè, quindi ovviamente poi con il tempo i nuovi materiali, le tecniche le hanno rese, diciamo, sempre più realistiche. La vera novità della Reborn è che chiunque perlomeno voglia farlo può realizzare da solo una bambola e personalizzarla come meglio crede. Ecco, questo, la bambola diventa un hobby per tutti, ecco, questo è la vera novità della Reborn, nasce un nuovo hobby creativo, è tutto qui. Noi non vogliamo alimentare la cattiva stampa sugli aspetti patologici, però indubbiamente ci sono, non posso fare a meno di non notare che trovo singolare persone che poi facciano le prove per capire quanto sia non confondibile questa bambola con un bambino vero. Questo c'è. Sì, però come si può veramente capire, sono persone burlone alle quali piace fare un po' di sensazione, perché guardi, innanzitutto c'è un aspetto, chi utilizza questa bambola in questa maniera con vari video si nota subito che ha tra le mani una bambola veramente di scarsa fattura, quindi che acquista veramente a poco prezzo per realizzare. Anche perché costano tanto, video. Uno lo spende, perché guardi, 3.000 euro per fare gli scherzi alle babysitter. Esatto, la vera collezionista non ha tra le mani bambole di scarsa fattura come quelle. Cioè le vere collezioniste cercano comunque pezzi realizzati bene, e le posso garantire, guardi, ritorno a dire, io non voglio essere presuntuosa per nulla, ma le mie centinaia di clienti sono tutte persone che realizzano, che collezionano bambole e ne fanno l'uso per il quale è previsto, cioè sono semplicemente collezioniste, oppure qualcuna la compra anche per la ragazzina, per la propria figlia come gioco, perché ricordiamoci comunque che la bambola nasce come certo. Gioco, ecco. Dice, mamma, fammi lo smartphone, pochino, no, ti becchi la bambolina che devi imparare a cambiare i pandolini, anche questo può essere un'idea. Ma guardi, non era mia intenzione criminalizzare, ho dato voce a tutti. Chiudiamo con Elga Marzala, il tuo commento, visto che hai ascoltato e osservato il fenomeno. Sei convinta che sia esagerato e portato alla ricerca dello scandalismo, come dice Grillo, il fatto di dire che comunque queste bambole c'è un piccolo alone limaccioso intorno? A parte sì. Collezionisti. No, è chiaro che c'è un confine tra chi lo fa per collezionare e chi magari ci mette poi un portato anche biografico. Questa cosa delle bambole per i bambini morti, per esempio, è reale, non è che me la sono inventata, cioè è un servizio che fa questa cosa, quindi che poi si possa sconfinare nella dimensione emotiva, chi vuole, ci sono anche mamme, per esempio, che non hanno avuto bambini e quindi riversano questo istinto materno nel bambolotto. Dico, sono confini disabili, nessuno vuole criminalizzare, un po' come la bambola, dicevi tu all'inizio, il sex appeal dell'inorganico, le bambole erotiche per gli uomini, non è che uno fa il moralismo, sono dei fenomeni. Però noi registriamo delle realtà, la rete è un grande indicatore di realtà sommerse, noi le portiamo alla luce con le persone che maggiormente se ne occupano e cerchiamo di raccontarle al popolo della radio che magari non ha mai sentito parlare. Alla prossima!